singolo degli After Hours, canzone che ormai conosciamo molto bene, Riprendere Berlino, e diamo subito il benvenuto, anzi il bentornato a Giorgio, proprio degli After Hours. Buongiorno. Buongiorno a voi. Come stai? Ma abbastanza bene, visto che c'è il sole, la giornata... Inizia bene. Sì, sì. Anche perché immagino che per te sia un po' l'alba, come giustamente per tutti i musicisti. Oggi no, nel senso che oggi sono stato mattiniero, ma involontariamente, per cause di forza maggiore. Ok, tutto bene. Allora, so che avete iniziato proprio in questi giorni il tour, il 1° maggio, grande concerto a Roma. Com'è andata? Ma è andata bene. È sempre molto stimolante, perché poi... quando si comincia, di solito abbiamo l'abitudine di complicarci la vita, ma non per masochismo, ma semplicemente per rendere la cosa un pochino più stimolante e interessante, anche se poi questo è il momento più bello, disco nuovo, pezzi nuovi da fare dal vivo, dopo 7 mesi di stop nel live, hai voglia di fare tutto, è il momento più bello, per cui cerchi anche di godertelo. Certo. Allora, ovviamente parliamo del nuovo album intitolato I Milanesi Ammazzano il Sabato. È bellissimo questo titolo, tra l'altro ripreso da un libro di un autore, adesso ti dico anche il nome, Giorgio Scerbanenko, giustamente. Esatto. Lo conoscete. E nasce dal libro, il titolo ispirato al libro, o comunque è anche un po' una realtà questa cosa, I Milanesi Ammazzano il Sabato? No, in realtà il processo è stato praticamente il contrario, nel senso che è venuto fuori per caso da una conversazione con Tommaso Colliva, che è colui che ha coprodotto e registrato e mixato il disco, e lui ha questo progetto che si chiama Calibro 35, dove suona anche Enrico Gabrielli e un sacco di altre persone che conosciamo, e loro riprendono musica, colonne sonore dei film poliziotteschi degli anni 70, e stanno scartabellando un po' tra vari titoli di libri e di film di quel filone, e quando Manuel ha sentito I Milanesi Ammazzano al Sabato ho detto: ah, bello, interessante. L'ha trascritto sbagliato, cioè I Milanesi Ammazzano il Sabato, sì. E allora lì si è reso conto che l'errore cascava a fagiolo, perché dava un doppio senso alla frase, no? Sì. Mentre il titolo di Scerbanenko si riferisce proprio all'atto fisico, invece questo comprende sia l'atto fisico sia il fatto di ammazzare il sabato, inteso come tempo libero, come valvola di sfogo. Aperitivo. Esatto. Ti mando il JPEG, ci proviamo. Mi è capitato, te lo giuro, perché sai che sabato appunto è un rito l'aperitivo, soprattutto ovviamente nella città di Milano, e ti mando il JPEG del posto, ci troviamo lì, facciamo l'ape. Quindi è un po' così. Anche sì, però comunque ci teniamo a sottolineare che il disco in realtà non parla di Milano, non è un disco, un concept, e non è tematico su Milano e sui milanesi. È chiaro che parla anche apertamente di Milano, ma è ovvio, perché è la nostra città. La vivete, giustamente la conoscete. Visto che la tematica del disco e dei testi è quella della quotidianità, e la nostra quotidianità è a Milano, ci siamo nati, cresciuti, ci viviamo tuttora, per cui è proprio il luogo fisico dove avvengono le cose che sono narrate nei testi. Dove appunto nascono anche magari le vostre canzoni, da tratte l'ispirazione da fatti quotidiani, da quello che appunto succede ogni giorno nella nostra vita. Sarebbe stato grottesco prescindere da Milano volendo parlare di quello che ti succede tutti i giorni, visto certo. Che ci succede qua. Tra l'altro voi avete giocato un po' il fattore anteprima, no? Nel senso, di solito quando c'è la pubblicazione di un disco uno si fa un bel tour promozionale, gira l'Italia il lungo e il largo, fa mille cose e poi si parte con il tour. Avete saltato questo passo, no? della promozione? Ma in realtà noi quella trafila standard non l'abbiamo mai fatta. Non so come dire, quella proprio standard che esce il disco e si fa un mese e mezzo o due di promozione prima di partire con il tour, perché la nostra promozione è sempre stata il tour, sempre legata ai live. Sì, abbiamo sempre usato il live invece che altri canali, soprattutto invece che la televisione, e quindi essendo sempre stato il nostro mezzo di promozione principale, diciamo che i tour bene o male sono sempre quasi cominciati contestualmente all'uscita del disco. Addirittura Ballate per piccole iene è cominciato 2 settimane prima dell'uscita del disco, e quello era una forzatura nostra, perché volevamo fare 2 settimane di concerti senza che il pubblico conoscesse il disco e per obbligarli ad ascoltare i pezzi nuovi senza conoscerli. E adesso invece, avete fatto comunque poche date legate al nuovo album, però la reazione ai pezzi nuovi, com'è, il pubblico come reagisce? Ma molto bene, mi sembra, anche perché nonostante il disco sia uscito venerdì con il CD che ha anticipato l'album, abbiamo dato in questo mese e mezzo un po' di assaggi con versioni anche alternative rispetto al disco di alcuni brani, e infatti ci siamo resi conto che quelli sono già entrati nella testa, e quindi sì, come tutti i nostri dischi non è sicuramente un disco da primo ascolto, però le reazioni mi sembrano molto positive anche dai commenti di MySpace. Devo dire che mi stupisce anche abbastanza, perché per quanto uno anch'io se aspetto il disco di un gruppo quando esce e non è un disco da primo ascolto, ci metto anche un pochino a farti un'idea, sì, e assimilarlo un po', anche perché ogni tanto il primo ascolto inganna. Beh, di solito è un buon segno. Quando, cioè, quando un disco mi piace al primo ascolto, dopo non è un buonissimo, no. Non è proprio un buon segno, perché dici che bello, poi magari lo riscolti due o tre volte e dici anche no, invece ci vuole tempo per conoscere un album, per conoscere le canzoni, insomma tutto quello che è legato poi anche giustamente ai testi. Sì, e poi dipende anche molto da che tipo di ascoltatore sei, cioè che tipo di musica ascolti, un sacco di cose. Se non sei un consumatore di musica che nel senso di che dopo due settimane non ne puoi più. No, non si fa. No, io no, neanche tu penso. Vabbè, no. Tra l'altro ci sono anche diversi, a parte il live, ci sono anche appuntamenti che vi riguardano, ad esempio all'interno della FNAC. Questa sera sarete alle 18 proprio qui a Milano, alla FNAC che si trova in via Torino, angolo via della Palla, alle 18. Cosa mi piace questo via della Palla. Cosa succede in questi incontri con il pubblico? Perché i vostri sicuramente sono anche un po' diversi da quelli degli altri artisti, c'è più rapporto con la gente che viene a vedervi, non è un puro ascolto dell'album, no. Magari due foto con la band o due autografi, c'è proprio un incontro vero e proprio, un'interazione particolare con... Ma di solito è una chiacchierata, nel senso che a noi interessa parlare col pubblico, di quello che interessa al pubblico, per cui per noi la cosa prioritaria è che loro ci chiedano quello che gli interessa e intavolare, insomma, togliere un po' di curiosità. Di solito c'è un moderatore, che di solito è un giornalista, un po' per partire, perché di solito c'è sempre un po' un blocco di timidezza, però in realtà ti dico, anche ieri a Genova in realtà non era previsto che ci fosse qualcuno, e ne abbiamo fatti tanti, per cui non è strettamente necessario che ci sia qualcuno che faccia da moderatore, anche perché poi si tratta solo di trovare il primo che faccia la prima domanda, poi si sblocca. Una volta che parte il primo. Sì. So che per ogni data c'è, per ogni appuntamento appunto dalla FNAC c'è un ospite anche diverso. Stasera, se non leggevo, che c'è appunto... Per ogni happening ci sarà un ospite a sorpresa che cercherà di interagire tra gli artisti e il pubblico. Stasera il Mina. Ah, beh, è una sorpresa anche per me. Ah, ok, fantastico. Ne so più io. No, non ne sapevi niente. Quindi no, è una bella sorpresa anche per te. Io sono stordito e potrebbe anche essere. Però... Visto che è ancora presto. No, tra un'ora mi verrà in mente e dirò, che figuraccia. Che ma non ti preoccupare, non ti preoccupare. È quello che appunto leggevo degli ospiti, il Mina tratto dal un personaggio del film. No. No, non ne sapevi niente. No, ma magari... non so niente. No, può anche benissimo essere che facesse una sorpresa a me. A sorpresa per il pubblico e per la band, vedi? Adesso io, mannaggia, ho rovinato la sorpresa. No. Ma sai quante volte vengo a sapere delle cose, sanno tutti. E tu sei l'ultimo. No, non necessariamente l'ultimo, però... E sono sempre quelle belle situazioni. No, ma voglio dire... sta anche. Vabbè, comunque stasera grandi sorprese alle 18 alla FNAC di Milano in via Torino. Mettiamola così, dai. Mettiamola così. Allora, ci ascoltiamo ancora qualcosa dall'album, giustamente abbiamo... tra l'altro leggevo che farete singoli per ogni canzone, nel senso ci saranno 14 singoli e per ogni canzone ci sarà legata a un video, quindi grandi progetti. Ma l'intenzione è questa, nel senso che... con questo disco, e anche in considerazione il fatto che abbiamo un certo tipo di strutture di persone intorno, mi riferisco a Casa Sonica, Universal. Volevamo un pochino, e abbiamo già cominciato a farlo, uscire dai meccanismi impostanti a promozione discografica, che sono noiosi, sono standardizzati, oltretutto non funzionano, e abbiamo la possibilità di fare delle cose un po' diverse, che sono anche più creative, se vogliamo, sì, anche se si parla di promozione, e quindi anche più divertenti. Un po' una cosa, un esempio è stato l'anticipazione del CD che è uscito prima del disco, un altro sono stati Secret Shows, le cose alla Fnac, nel senso affiancare alla promozione standard delle altre iniziative un pochino diverse dalla solita, che sono più stimolanti sia per voi e anche magari per il pubblico, sì, giustamente, sì. E quindi anche volevamo uscire da questo concetto del singolino radiofonico e basta, del videoclip fatto seguendo i canoni perché andasse bene a tutti. Ci siamo piuttosto stufati di fare queste cose, per cui il concetto era di dire che questo disco è composto da 14 singoli perché tutte le canzoni hanno la stessa dignità, altrimenti non sarebbero dentro il disco, e che quindi sono 14 singoli, e se ci riusciamo vogliamo fare 14 video, indipendentemente dal fatto che poi vadano in rotazione televisiva, perché se ci vanno tanto meglio, certo. Se non ci vanno ci sono tanti mezzi, altri canali, certo. Appunto. Oggi fortunatamente non è come ai vecchi tempi che avevi o la televisione perché sai, a 43 anni sentirti dire che devi fare il video con quei colori, però non sorridete mai, ma perché se voglio di sorridere sorrido. Se no. Poi voglio dire, bisogna anche capire la canzone, che cosa parla, che atmosfera, certo. Perché voglio dire, poi spesso volentieri i singoli scelti perché proprio il singolino, quello carino, radiofonico, che va bene per tutti, spesso volentieri non rappresenta bene l'album, quindi per me è una presa in giro, cioè alla fine della fiera. Infatti noi ogni tanto ci siamo, nel corso di questi anni, permessi di non trasmettere il singolo, ma magari di trasmettere altre 1000 canzoni dell'album, soprattutto quando c'è un rapporto con la band che conosci, e soprattutto musicalmente, e senti il singolo e dici no, però questo non rappresenta quello che è l'album, quello che è il gruppo, quindi scegliamo noi. Sì, ma ti dico di più, normalmente quando si tratta, ma anche questa volta in particolare, proprio per il fatto che è il primo disco che facevo con Universal, è stata scelta una rosa di pezzi, abbiamo detto sceglietelo voi. Per noi è uguale, tanto sono tutti. Sì, lo devono scegliere anche le radio, chi lo deve trasmettere. Per noi hanno la stessa dignità i pezzi, per cui non è che uno conta più dell'altro. Certo. Anzi. Va bene, allora ci prendiamo una piccola pausa, ci ascoltiamo una canzone tratta dai Milanesi Ammazzano il Sabato, questa è Neppure Carne da Cannone per Dio. dal nuovo album degli After Hours. Allora, il nuovo album si intitola I Milanesi ammazzano il sabato. Questa era Neppure carne da cannone per Dio. Ricordiamo questa sera l'appuntamento alla FNAC di Torino, angolo Via della Palla, alle ore... mi piace, alle ore 18. E poi ovviamente c'è anche il tour che è iniziato proprio il 2 maggio. Vedo che dove sarete adesso? Allora, l'8 a Roma, il 9 a Napoli, il 10 a Bari, il 13 maggio sarete alla Sassol di Firenze, il 17 maggio al Palasport di Pordenone, il 23 maggio alla grandissima si chiude a Milano, al Palas Sharp. Sì, sì. Che bello. Almeno quando è finita sei già a casa. Ah, ecco, io so, sai, va bella la cosa di chiudere a Milano. No, ma è stata una cosa scelta casuale quella di chiudere a Milano? No, ha tutta una spiegazione. Beh, intanto, una volta tanto siamo stati, abbiamo avuto l'accortezza di non fare subito le date quelle più... per noi il come si dice, il... oddio... Il culmine, diciamo, sì. Senza togliere niente a nessun altro, sono le date di Roma e di Milano, perché comunque sono le due date dove viene un sacco di gente da fuori dal punto di vista geografico. In passato abbiamo fatto un po' degli azzardi, inizio tour appena uscito il disco con i pezzi nuovi che non puoi averli in mano come quelli vecchi, di fare delle date subito, quelle subito a Roma, subito a Milano, sì, cose di questo genere. Ce ne siamo un pochino pentiti, ma poi ci sono anche delle spiegazioni logistiche. Il fatto è che girando con il tour bus ha senso fare l'ultima data a Milano, perché una volta che hai fatto la data di Pordenone se ne torna a casa al tour bus, visto che ci sono dei giorni in mezzo. Sono questioni logistiche, economiche, molto, molto più tristi e banali di quello che si possa pensare. Però attenzione, il tour bus è figo. Sì, è figo, eh? Ma ti dico, è diventato necessario, perché è una cosa che abbiamo sperimentato negli Stati Uniti per forza di cose. L'abbiamo sperimentato in Italia nel dicembre del 2006 e lì ci siamo resi conto che non si poteva tornare indietro, perché ci siamo resi conto che il 60% della fatica è dovuta ai viaggi, il 40% ai concerti. E oltretutto più andiamo avanti più è difficile, anzi sono impossibile viaggiare in Italia, perché sono code, incidenti. Sì. Sai? Ho notato questa parli cosa. Parli con una pendolare da tipo 15 anni, quindi ho esperienze. No, e ci ha tolto un sacco di... puoi fare veramente molte più date di fila e ti rendi conto che non è quello che ti distrugge, ma è il furgone. No, poi io penso che giustamente crescendo il riposo è, se fatto bene parti già alla, cioè in quinta. Ma poi io ti dico, non riesco quasi mai a dormire in realtà in viaggio in Italia, perché mi addormento quando arriviamo a destinazione, no? Quindi classico. Più o meno alle 6 del mattino. Però il vantaggio è che comunque ognuno ha i suoi ritmi. Io avevo la mia penichella tipo dalle 4 alle 6 del pomeriggio, mi alzavo, andavo a fare il soundcheck ed era perfetto, perché andavo a recuperare quello che non avevo dormito la notte. Quindi che bello, viva la penichella. Torniamo a parlare dell'album. Con chi avete collaborato? Perché so, ancora una volta si fa il nome di Greg Dooley, grandissimo personaggio. Ormai è uno della famiglia, quindi sì, un po' sì. Scontata, nel senso buono, appunto, la collaborazione con lui. Quali sono gli altri personaggi che vi hanno accompagnato in questa avventura musicale? Senti che termine. Beh, John Parrish, intanto, che aveva già mixato 4 pezzi, mi pare 4-5 pezzi di Ballate per piccole iene, e gli abbiamo fatto sentire delle cose, gli sono piaciute moltissimo, e quindi anche in questo album ha coprodotto 4 pezzi. E poi c'è Steph Camille Carlens degli Zeta Swan, ex bassista dei Deus, che ha arrangiato e inciso tutte i cori armonizzati che ci sono nel disco. Ha fatto delle cose veramente... La prima volta che collaboravate con lui? Come After, sì. In realtà ha già fatto delle cose con Manuel nel progetto Songs with Other Strangers, mm-hmm. con Cesare Basile, sempre John Parrish e tanti altri. E poi Brian Ricci, Violent Femmes, ha inciso 2 bassi acustici, uno è su Neppure carne da cannone per Dio e l'altro è sulla mia città, mi pare. Poi appunto Greg, che rispetto all'altro disco ha partecipato più marginalmente, ma in quanto impegnatissimo nella chiusura del disco dei Gutter Twins, che era da 15 anni che doveva essere chiuso. E poi vabbè, Cesare Malfatti, La Cruz e ora Amorfu, che è coautore di 3 brani del disco e ha suonato anche delle chitarre. Spero di non dimenticare nessuno, mi pare. Sì, cioè, beh, Cesare Basile ha collaborato con Manuel su qualche testo. Spero di non essermi dimenticato nessuno, ma mi pare che ci siamo tutti. Ok, tra l'altro leggevo un po' in occasione appunto dell'uscita del nuovo album, di questo approccio proprio alle nuove canzoni, al nuovo album, che avete definito più leggero, più sì, tra virgolette ironico rispetto al passato. È stata una cosa naturale o magari una cosa che è derivata dalle esperienze del passato? Ma un po' tutto l'insieme. Diciamo che più che ironico è di leggerezza, nel senso che la prima svolta sono stati i tour in America, perché ci hanno fatto veramente cambiare atteggiamento e mondo molto... nuovo, cioè arrivi lì e dici, cioè, sembra un mondo nuovo, no? Ma sì, beh, quello sì, sicuramente, però quello che appunto ci ha colpito di più è il fatto che venendo da qua, dove siamo in giro da tantissimi anni e tutti conoscono tutte le canzoni, tutte, ma non solo, viene anche, non dico giudicato tra virgolette, per tutto un sacco di aspetti che non hanno assolutamente a che fare con la musica, no? Per come porti i capelli, come sei vestito, cosa dici, cosa non dici, sei simpatico, sei antipatico, sei bello, sei brutto. Là invece siamo tornati indietro di 15 anni, non ci conosceva nessuno e quindi l'unico parametro e l'unico mezzo comunicativo con il pubblico era la nostra musica. Sì. Non sapevano niente di noi. E questo ci ha colpito come ci ha dato leggerezza e come suonassimo con un'altra attitudine veramente. E questa cosa chiaramente abbiamo cercato di salvarla il più possibile tornando qui e quindi cercando di mantenere questo atteggiamento che è fondamentalmente psicologico, no? E ci ha permesso di riapproparci un po' della musica e di pensare solo a quello. Fondamentalmente si può sintetizzare il tutto nel fatto che abbiamo smesso di farci le pippe mentali. e oltre a questo ha aiutato molto il fatto che questo disco è comunque il primo disco di questa formazione, che è una formazione appunto che è stata in giro per 2 anni e mezzo in Italia, negli Stati Uniti e in Europa, che si è consolidata suonando dal vivo in posti totalmente diversi, facendo delle esperienze molto importanti. In 2 anni e mezzo abbiamo vissuto più cose che nei precedenti 8 e quindi siamo arrivati a comporre il disco, a inciderlo, ad arrangiarlo e tutto quanto, anche con un'esperienza fatta insieme, però dal punto di vista creativo con una verginità totale. E infatti rispetto al passato siamo entrati in sala prove e la prima cosa che volevamo è vedere cosa veniva fuori di getto, ed è venuto fuori un sacco di roba che abbiamo tenuto subito. Bene. È stato molto facile da quel punto di vista, anche perché ovviamente lavoro molto collettivo, c'erano un sacco di energie nuove, creatività nuove, e oltre a Robby Dell'Era al basso, che è oltre ad essere un bassista è anche chitarrista, cantante, Rico è un Gabriele è un po' suona di tutto, una specie di octopus, non sono cambiamenti insomma marginali, è stata una grossa differenza avere questi nuovi, anche solo gli ingredienti sonori, che infatti nel disco sono stati usati pesantemente, vedi i fiati che non ci sono mai stati negli After House. E tra l'altro appunto Enrico ha un'apertura creativa incredibile, una padronanza di tutti gli strumenti spaventosa e la disponibilità a usarli, interpretarli in modo diverso da quello canonico, che in realtà non ci interessava più. Certo, vedi che se uno ha la fortuna e la possibilità di fare delle cose all'estero sono delle esperienze che ti come musicista ti arricchiscono. Ma io lo consiglierei a chiunque, ma anche a un fonico di palco, a chiunque, perché ti rendi conto che in Italia molto spesso le cose vengono fatte perché si fa così, ma non si capisce chi ha deciso che si facciano così e chi l'ha detto che si facciano così. Cioè proprio un po' di veramente un conservatorismo musicale a tutti i livelli e anche tecnico che è un po' sì. C'è un po' di pretestuosità, che di là, che voglio dire, hanno un'esperienza di 50-60 anni solo di rock and roll, invece c'è un'apertura notevole. Anche lavorare con appunto in Italia magari con degli stranieri che sono in tournée impari un sacco, perché proprio vedi il metodo di lavoro a partire dal musicista, come dicevi tu, anche ai lavori tecnici di produzione. Ogni tanto sono due mondi completamente ma lì impari diversi. lì impari a funzionare mettendoti gli ostacoli, no? E non ce n'è. devi funzionare, altrimenti sì, te ne vai a casa. Sì, sì, non sì, c'è sì, proprio sì, nessuna... Ad esempio, gli americani arrivano e in 5 ore fanno tutto. Loro arrivano e lavorano, così poi si godono la giornata. Sì, ma già solo il soundcheck là non esiste, fondamentalmente, nei club. Suonano 5 gruppi, ognuno monta e smonta il suo backline. Una volta che l'ha montato e microfonato, il primo pezzo del concerto, erano sui livelli e il resto sì, è già fatto. Sì, sì, no, incredibile. Che è, certo, se non sei abituato, ma una ti destabilizza. È una complicazione ovvio, incredibile. Invece è solo questione di abitudine, basta. Sì, sì, sì, sì. Noi invece in Italia prendiamo le cose, siamo un po' più comodi con le cose. Ma sì, ma perché farlo adesso quando posso farlo dopo? Insomma, ho tutta la giornata a disposizione. Insomma, siamo un po' più leggeri per molte cose. Quindi il pubblico americano come vi ha trattato? Ma molto, molto bene. Perché comunque loro hanno proprio di cultura, il fatto che il primo tour l'abbiamo fatto prima dei Twilight Singers, quindi il pubblico dei Twilight Singers veniva presto per vedere noi perché era curiosa di sentire il gruppo che avrebbe aperto per i Twilight Singers. Sono molto aperti e molto meritocratici come sono gli americani, nel senso che ti ascoltano, sei bravo, dopo 20 minuti sono tuoi, nel senso che ti portano in palmo di mano, se non sei bravo è meglio che te ne torni ciao a casa. Sì, è molto spietato, come è proprio il sistema americano che è spietato, contemporaneamente è molto meritocratico, che è il contrario che da noi, nel senso che noi siamo molto più mammoni e molto spesso, cioè, non tanto in campo musicale, però in altri campi che magari sono anche più importanti socialmente, va avanti chi conosce qualcuno ma non chi è bravo. Bah, guarda, chiudiamola, su questo qua, potremmo guarda andare avanti per ore, anni. anni, però poi insomma non sa da fa, no. Però è bella questa cosa che noi in Italia magari siamo appunto un po' pigretti, quando c'è un concerto vai a vederti gli headliner, il supporto, a meno che non lo conosci, però non hai voglia di star lì, andare a... Invece è bella questa cosa invece di magari alzare il culo e andare a vedere anche una band che non conosci, perché potresti anche scoprire una... Ma quello anche al di là della band che apre qualcuno che ha conosciuto, proprio una cosa che in realtà gli anni, fino agli anni 80, primi anni 90, c'era questa cosa, perché era bello, no, andare a scoprire qualcosa che non conoscevi. Adesso questa cosa non c'è più e l'abbiamo sperimentata in mille modi, cioè è stato il problema di Arezzo Wave, che non ha inventato qualunque cosa pur di trascinare la gente al pomeriggio, inventandosi palchi alternativi, cose di questo genere. Il Tora Tora è morto per lo stesso motivo, perché gli headliners dopo 4 anni erano sempre gli stessi e diventava grottesco e così, e infatti i gruppi fanno molta più fatica adesso a suonare rispetto a 10-15 anni fa, anche perché poi all'epoca c'era qualche spazio in più anche dal punto di vista dei centri sociali in giro per l'Italia. Adesso mi rendo conto che è veramente durissima trovare uno spazio per suonare, anche perché appunto la gente non è curiosa. No, è un po' la nostra mentalità, purtroppo. Allora, torniamo invece a parlare del tour. Voi vi fermate appunto il 23 maggio e sarete al Palace Art di Milano. Sì. Quest'estate, giustamente, ci saranno... L'estate è anche sinonimo di festival estivi, suonare all'aperto... Salsiccia alla griglia. Sai, salamella, la birrella, il bicchiere di vino... Cosa fate quest'estate? Allora, chiuso questo tour, noi andiamo i primi di giugno, andiamo a Toronto... siamo stati invitati al North by North East, che è il contraltare del South by Southwest di Austin, e una volta che andiamo là attacchiamo uno showcase a New York. Però stiamo via poco, una settimana massimo, e quando torniamo parte il tour estivo. Adesso io non ho ancora calendari neanche provvisori, però mi posso immaginare che da 18-20 di giugno via, si parte, sì, e arriverà un bel calendario fitto che tu speriamo di sì. Ma invece Europa, perché abbiamo parlato, vabbè, adesso hai citato Toronto, Italia, il resto d'Europa non tornate a fare qualche piccola esperienza? Sì, sicuramente, ma anche negli Stati Uniti andremo a fare un tour il più presto possibile, potrebbe anche essere in agosto. Manuel ha già cantato infatti 6 brani del disco in inglese. Appena avevamo finito di mixare, è stata una settimana a New York a chiudere dei testi, a cantare, e stiamo cercando, aspettando in realtà di pubblicare il disco all'estero, in modo da renderlo un pochino più, far coincidere le cose logisticamente, cioè. Come sono in inglese? Come sono in inglese? Ma allora, io non li ho ancora sentiti cantati, i cantati definitivi in inglese. Però quindi non ti posso dire niente. Dal punto di vista sonoro, sai, molti i pezzi nascono in inglese, quasi tutti nascono in inglese maccheronico, ma da sempre. Quindi in realtà dall'interno lo stupore ce l'hai quando li senti in italiano per la prima volta. Perché la metrica è difficilissimo rispettarla, no? Tra inglese maccheronico o comunque inglese vero e italiano. Per cui lo stupore dall'interno è funziona esattamente il contrario. Devo dire che è la prima volta che, infatti l'ho detto a Manuel mentre cantava i pezzi, cioè è incredibile perché hai rispettato la metrica passando dall'inglese maccheronico all'italiano, ma senza spostarla di una virgola, ed è veramente, veramente difficile. È difficilissimo. Sì, sì. Infatti secondo me il fatto del disco scorso, fatto in tutte e due le lingue, l'ha aiutato molto. L'ha aiutato parecchio, sì, certo. Sì. Sennò si fa come i Rammstein, tutto in tedesco e via. Sì, però sai, io non è assolutamente scontato il fatto di riuscirci lo stesso, perché comunque l'inglese ha un suono, una metrica di un certo tipo, l'italiano comunque non è che cambiano, per cui sì, vuol dire che ha proprio fatto un lavoro serio. D'altronde è un gran lavoratore, è un gran professionista. A proposito di inglese maccheronico, thank you very much for being here. No, questo was very nice talking to you. Questo è più accento indiano che maccheronico. Sì. No, il maccheronico è proprio tipo quello di Celentano dei primi dischi. Ah, cioè, sì, è proprio quello che non ha nessun significato. Va bene, allora ovviamente i contatti degli After Hours, il sito, la pagina MySpace per essere aggiornati su quello che saranno le date di adesso, le date poi del tour estivo in Italia, all'estero, e per sapere tutte le diverse iniziative legate. Andrò a visitarli, così sono già un po' più aggiornato e informato. Oh, mi raccomando, stasera la FNAC, sai benissimo che c'è un ospite. Sì, per fortuna c'è solo una FNAC, se no andrò in un'altra. Arriva un po' preparato. Ricordiamolo comunque, questa sera l'appuntamento in via Torino, angolo via della Palla, alle 18 per l'incontro con la band, e poi altre date per il tour, insomma, che si concluderà il 23 maggio al Palace Sharp di Milano. Io a questo punto spero di rivedervi prima del 31 maggio, visto che sarà la data che, mannaggia, perché i milanesi sì che mi ammazzano sabato sera, però qualche milanese ammazza anche un po' la radiofonia italiana. E quindi spero vivamente di rivedervi via telefono, magari in qualche modo prima. Ma speriamo anche fisicamente. Di prima di quella bruttissima data. Va bene, comunque grazie Giorgio. Grazie a voi. Ci ascoltiamo ovviamente un'altra canzone tratta dal nuovo album. Adesso giustamente dovrei, eccola qua, Tutti gli uomini del presidente, l'ho ricordata. Grazie mille, ricordiamo anche il nuovo album, I milanesi ammazzano il sabato. Grazie. Grazie a te. Ciao, ciao. Ciao.